Quando il vento soffia con una forza di 50 newton, quale deve essere la massa di un corpo per non farsi trascinare? Ignorate l'attrito e usate la formula secondo la quale forza è uguale a massa per accelerazione, considerando l'accelerazione come 10 metri su secondo quadrato.